Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. Per donna Adelaide e don Ippolito Laurentano era cominciato, fin dalla prima sera che erano rimasti soli nella villa di Colimbetra, un supplizio previsto da entrambi difficilissimo da sopportare, per quanta buona volontà l'uno e l'altra ci avrebbero messo. Appena andati via gli invitati alla cerimonia nuziale, don Ippolito, con molto garbo, prendendole una mano, ma pur senza guardargliela, per non avvertire quanto fosse diversa da quella tenuta un tempo tra le sue, pallida e lunga mano, morbida, tenera e lieve, aveva cercato di farle intendere il bene che da lei si riprometteva in quella solitudine d'esilio, di cui supponeva le dovessero essere note le ragioni, se non tutte, almeno in parte. Il discorso tenuto sul terrazzo davanti alla campagna silenziosa, già invasa dal buio della notte, era stato in verità un po' troppo lungo e un tantino anche faticoso. La povera donna Adelaide, oppressa dalla violenza di tanti sentimenti nuovi durante quella giornata e ora da tutta quell'ombra e da quel silenzio che le vaneggiavano intorno, e le rendevano più che mai soffocante l'ambascia per ciò che misteriosamente incombeva ancora sulla sua terribile signorinaggine, a un certo punto, per quanto si fosse sforzata, non aveva potuto dir più nulla di quel pacato, interminabile discorso. Alla fine era riuscita a vincere l'intronamento. Gli orecchi le si erano rifatti vivi un istante, ma per fuggire lontano, per afferrarsi a un qualche filo di suono nell'oscurità della notte che le avesse dato sollievo e distrazione. Veniva dalla riviera, laggiù, invisibile, un sordo borboglio continuo, e tutto a un tratto, proprio nel punto che il discorso del principe si era fatto più patetico, donna Adelaide era uscita a domandargli: «Ma che è il mare? Si sente così forte ogni notte?» Don Ippolito, dapprima stordito, «E il mare? Ma che mare?» Si era poi sentito cascare le braccia. «Ah, sì, è il mare. È il mare.» E le aveva lasciato la mano e si era scostato. Donna Adelaide, imbarazzata, non sapendo come rimediare all'evidente mortificazione del principe per quella domanda inopportuna, era rimasta come appesa balordamente alla sua domanda. La risposta si era fatta aspettare un po' e alla fine era arrivata da lontano, grave. «Greda così, quando è scirocco.» Quella remota voce del mare era a lui cara e pur triste. Tante volte, nella pace profonda delle notti, gli aveva dato angoscia e compagnia. Abbandonato sulla sedia da sdraio, si era lasciato cullare da quel cupo fremito continuo delle acque che gli parlavano di terre lontane, di una vita diversa e tumultuosa che egli non avrebbe mai conosciuta. Si era sentito ripiombare tutto a un tratto da quel richiamo nella profondità della sua antica solitudine. A donna Adelaide aveva fatto pena quel viso rabbuiato. Pover'uomo, non aveva saputo neanche alzar gli occhi a guardarla, quando a colazione si era rimesso a parlarle. Ma sì, certo, era una condizione insolita la loro, trovarsi così a essere marito e moglie quasi senza conoscersi. A poco, certo, sarebbe nata tra loro la confidenza e... Ma sì, certo. Si era accorta però che dicendo così le smanie del principe erano cresciute, s'erano anzi più che più esacerbate e con vero terrore aveva veduto riapprossimarsi la notte. Per parecchie notti di fila s'era rinnovato questo terrore. Alla fine avevo ottenuto in grazia d'esser lasciata in pace a dormire sola in una camera a parte. Pochi giorni dopo scoppiò il fulmine e fu la notizia dell'eccidio d'Aragona. Parve che scoppiasse proprio su Colinvetra, poiché lì, per combinazione, sotto lo stesso tetto, si trovarono il padre dell'autore principale dell'eccidio, cioè il segretario Lisi Preola, e il patrigno della vittima, il povero Don Salesio. E lo sbigottimento e l'orrore crebbero ancor di più allorché da Roma, come il rimbombo di quel fulmine caduto così da presso, giunse l'altra notizia dell'impazzimento di Dianella. Donna Adelaide, colpita ora direttamente dalla sciagura, lasciò d'accoppare con la sua fragorosa e affannosa carità a Don Salesio e si mise a strillare per conto suo che con Dianella impazzita a causa di quell'eccidio non era più possibile che rimanesse lì a Colinvetra il padre dell'assassino. E il principe, per farla tacere, quantunque stimasse ingiusto incrudelire su quel vecchio già atterrato dalla colpa nefanda del figlio, si vide costretto a mandarlo via dalla villa con un assegno. Prima d'andare, il preola, strascicandosi a stento, col grosso capo venoso inteschiato ciondoloni, volle baciar la mano anche alla signora principessa e le disse che volentieri offriva ai suoi padroni per il delitto del figlio la penitenza di lasciare dopo 33 anni il servizio in quella casa, compiuto con tanto amore e tanta devozione. Donna Adelaide, commossa e pentita, cominciò a dare in smanie e chiamò innanzi a Dio responsabile il principe del suo rimorso per l'ingiusta punizione di quel povero vecchio. Sì, il principe, sì, per l'orgasmo continuo in cui la teneva, così che ella non sapeva più quel che si volesse. E pur di darsi uno sfogo, diceva e faceva cose contrarie alla sua natura. Le sue smanie divennero più furiose che mai, come seppero che erano ritornati da Roma suo fratello Flaminio e Dianella. A Monsignor Montoro, sceso a Colinvetra in visita di condoglianza per la morte di donna Caterina, domandò, con gli occhi gonfi dal pianto, se gli pareva umano che le si proibisse d'andare a vedere e assistere la nipote a cui aveva la parte. Don Ippolito in quel momento non era in villa. S'era recato al camposanto di Monamorone, poco discosto da Colinvetra, a pregare sulla fossa della sorella. Quando entrò, scuro, nel salone, finse di non vedere il pianto della moglie e al vescovo, che gli si fece innanzi, con punto e con le mani tese, disse: «È morta disperata, monsignore. Disperata. Il figlio in carcere, compromesso con tanti altri di questi patrioti, nella frode delle banche. E quel Selmi è venuto qua, padrino avversario del Capoleno. Ha saputo, si è ucciso. Scondano tutti le loro belle imprese. E lo sfacelo, monsignore. Dio abbia pietà dei morti. Ma io mi sento il cuore così arso di sdegno che non mi è stato possibile pregare. Un fremito ai ginocchi m'ha fatto levare dalla fossa della mia povera sorella. E mi sono domandato se questo era il momento di pregare e di piangere o non piuttosto di agire, monsignore. Ma che dobbiamo proprio rimanere inerti mentre tutto si sfascia e le popolazioni insorgono? Ma ha sentito, ha letto nei giornali. Le folle hanno un bell'essere incitate da predicazioni anarchiche, scendendo in piazza a gridare contro la gravezza delle tasse. Recano ancora con sé il crocifisso e le immagini dei santi. Anche quelle, però, del re e della regina, Don Ippolito, gli fece osservare amaramente monsignore. Per disarmare i soldati, rispose pronto Don Ippolito. Il segno che l'animo del popolo è ancora con noi. È in quelle. È chiaro, è in quelle. Sa che mio figlio è in Sicilia? Monsignore chinò il capo più volte, con mesta gravità, credendo che il principe gli avesse fatto quella domanda per chiamarlo a parte di un dispiacere. «Ha viaggiato insieme con Don Flaminio», aggiunse con un sospiro, «e con la povera figliuola». Donna Adelaide ruppe in nuovi e più forti singhiozzi. Don Ippolito pestò un piede rabbiosamente. «Bisogna vincere i propri dolori», disse con fierezza, «e guardare oltre, saper vivere per qualche cosa che stia sopra alle nostre miserie quotidiane e a tutte le afflizioni che si procaccia la vita». «Io ho scritto a mio figlio, monsignore, e ho fatto anche chiamare il capolino per proporgli di andare ad abboccarsi con lui, se fosse possibile venire a qualche intesa». «Ma come, Don Ippolito?» esclamò con stupore e afflizione monsignore. «Con quelli che gli hanno ora assassinato barbaramente la moglie!» Don Ippolito tornò a pestare un piede sul tappeto, strinse e scosse le pugna, e col volto levato e atteggiato di sdegno, fremette: «Schiavedò, schiavedò e schiavedò! Se io non fossi inchiodato qui!» «Ma che siamo sbandite? Davvero sbandite?» domandò allora, tra le lagrime, Donna Adelaide, rivolta al vescovo. «Ma chi ci proibisce di uscire da qui e di andare dove ci pare, monsignore?» «Chi?» gridò Don Ippolito, volgendosi di scatto, col volto scolorito dall'ira. «Non lo sapete ancora?» «Monsignore, non ha posto lei, chiaramente, i patti di queste mie nuove nozze sciagurate?» «Ma come? Non sa ancora costei chi ci proibisce di uscire da qui?» «Ma in un caso come questo», gemette Donna Adelaide, «ma vado io sola». «Ma io vorrei stare, ma santo Dio, ci vuole anche un po' di cuore, ci vuole!» Monsignor Montoro la supplicò con le mani di tacere, di usare prudenza. Don Ippolito si portò e si premette forte le mani sul volto, a lungo. Poi, mostrando un'aria del tutto cangiata, di profonda amarezza, di profondo avvilimento, disse: «Monsignore, procuri di indurre mio cognato a portar qui la figliuola presso la zia. Forse la quiete, la novità del luogo le potranno far bene». «Qui? Davvero qui? Ah, se viene qui!» proruppe allora con furia di giubilo Donna Adelaide, dimenandosi, quasi ballando sulla seggiola. Sì, monsignore mio, sente, lo dice lui. La faccia venire qui, monsignore, subito qui, la mia povera figliuola!» Lieto della concessione, monsignore parò le candide mani paffute ad arrestare quella furia. «E aspettate, permettete, ecco, vi devo dire una cosa che mi ha tanto, tanto intenerito. Qua sì, ma aspettate e vedrete che è meglio lasciare per ora a Girgenti la povera figliuola. Forse abbiamo un mezzo per guarirla. Sì, ecco, l'altro ieri sera, sapete chi è venuto a trovarmi al vescovado? Il De Vincentis, quel povero Ninì De Vincentis, innamorato da lungo tempo della ragazza. Oh, caro giovane, oh, se l'avesse veduto in uno stato, vi assicuro che faceva pietà. Si mise a piangere perdutamente e mi pregò, mi scongiurò di dire a Don Flaminio che si fidasse di lui e lo mettesse accanto alla ragazza, perché egli, col suo amore, con la sua calda pietà insistente, sperava di scuoterla, di richiamarla alla ragione, alla vita. Ebbene, che ne dite?» «Magari», esclamò Donna Adelaide. «E Flaminio?» «Ho fatto subito ieri mattina l'ambasciata», rispose monsignore. «E Don Flaminio, che conosce il cuore, la gentilezza e l'onestà illibata del giovane, ha accettato la proposta, promettendo al De Vincentis che la figliuola sarà sua se farà il miracolo di guarirla. Ora il giovane è lì, presso la povera figliuola». «Lasciamola stare, Donna Adelaide, e preghiamo il Dio insieme che il miracolo si compia». Che agli occhi altrui figurasse d'andare a Colimbetra non di sua volontà, ma chiamato, piaceva molto a Capolino. Era là, adesso, appesa al ramo, una pera, rimasta un tempo acerba alla sua brama, ma che ora, a quanto poteva congetturare da notizie recenti, doveva esser più che matura, lì lì per cadere a una scrollatina cauta e ardita della sua mano. Sarebbe stato questo il perfetto compimento della sua vendetta. E tutto pareva meravigliosamente preordinato perché si compisse presto e bene. Adelaide Salvo figurava nubile tuttora davanti allo stato civile. L'avrebbe spinta a fuggire con lui a Roma e a riparare in casa della sorella Rosa. Prudentemente, per raffermar bene il suo diritto di salvatore, si sarebbe prima trattenuto alcuni giorni a Napoli con lei, che, poverina, doveva aver tanto bisogno di quegli svaghi che solamente una città come Napoli poteva offrirle. Col tempo, anche Flaminio Salvo, per intercessione di Don Francesco e di Donna Rosa, si sarebbe forse placato e non gli avrebbe attraversato la via. Il vero punto, adesso, era persuadere Adelaide d'affrontare lo scandalo della fuga in quel momento sciagurato della pazzia della nipote. Ma Monsignor Montoro gli aveva detto che il principe proibiva assolutamente alla moglie di recarsi a Girgenti anche per una visita in casa del fratello. Un'altra congiuntura meravigliosamente propizia era nell'opera pietosa offerta da quel caro Ninì De Vincentis alla povera ragazza, che se Dianella fosse stata portata con l'imbetra presso la zia come il principe aveva proposto, altro che pensare alla fuga, egli non avrebbe potuto più neanche mettervi il piede. Ma poteva bastare ad Adelaide questa vaga speranza, questa magra consolazione da lontano di sapere inginocchiato innanzi alla nipote demente quel povero San Luigi? In fondo, tutto quell'ardore, per quanto sincero, di visitare la nipote, doveva essere un pretesto per uscire da Colimbetra. Le ragioni delle sue smanie perduravano tutte, esagerate per giunta da quella proibizione. Né Flaminio Salvo si sarebbe mai indotto a persuadere il principe di concedere alla sorella quell'uscita. Bisognava insistere su questo punto, dimostrare ad Adelaide che il fratello non era uomo da venir meno ai patti stabiliti col principe per nessuna considerazione, cosicché ella, perduta ogni speranza nell'aiuto del fratello e vedendosi condannata a struggersi lì nel dispetto e nella noia, non vedesse più altro scampo che in lui e trovasse nella disperazione il coraggio della fuga. Questi pensieri e ricordi e propositi rivolgeva in sé Capolino scendendo da Girgenti a Colimbetra in vettura, ma non gli suscitavano dentro né ansia né calore. Avvertiva anzi una frigidità nauseosa, come se la vita gli si fosse raggelata. Sentiva che quella sua vendetta era per cose che restavano indietro nel tempo, irrevocabili e già morte nel cuore, e che però non ne avrebbe avuto né gioia né promessa di bene per l'avvenire. Vendicava uno che un giorno era stato respinto da Adelaide Salvo, ma era più ormai quell'uno? Tante cose non avrebbero dovuto accadere che purtroppo erano accadute e di cui sentiva in sé nel cuore il peso morto perché avesse ora qualche gioia della sua vendetta. E appunto tutte queste cose morte gliela rendevano così facile. Ecco perché sentiva quella frigidità nauseosa. In Nicoletta Spoto aveva potuto trovare un certo compenso, un rinfranco alla nausea della sua abiezione. Per quella e con quella valeva quasi la pena d'esser vile. Ma suscitare adesso un nuovo scandalo, fare un affronto a un uomo come Don Ippolito Laurentano per Adelaide Sanz. Forse però, in fin dei conti, sarebbe stato anche un sollievo per Don Ippolito portargli via quella moglie. Sul momento l'amor proprio ne avrebbe un po' sofferto, ma non era male che a lui, così favorito sempre dalla sorte, bello, nobile, ricco, che aveva potuto prendersi il gusto e la soddisfazione di tener sempre alta la fronte, la sorte stessa, ora, all'ultimo, con la mano di lui, capolino, allungasse uno scappellotto, così, di passata. Ancora un'altra agevolazione, e questa davvero inaspettata, e tale da fargli quasi cadere le braccia, trovò appena arrivato in villa. Don Ippolito, sdegnato, da un canto dalla sfiducia del vescovo, dall'altra al tutto disilluso dalla risposta di Lando arrivatagli la sera avanti da Palermo circa alla possibilità di venire a un accordo col partito clericale, s'era rifugiato, come in tante altre occasioni bisognoso di conforto, nel culto delle antiche memorie, nell'opera da lungo tempo intrapresa sulla topografia agragantina. Poco dopo mezzogiorno, rientrando a Colimbetra, stanco della lunga cavalcata, Don Ippolito sorprese nel salone Capolino e Donna Adelaide in fitto colloquio. Questa accesa e in lacrime, quello pallido e in fervida agitazione. Si fermò sulla soglia, con un piglio più di nausea che di sdegno. «Oh, principe!» fece subito Capolino, levandosi in piedi smarrito. «State, state!» disse Don Ippolito, protendendo una mano, più per impedirgli d'accostarsi che per fargli cenno di restar seduto. «Non vi chiedo scusa del ritardo, perché la signora, vedo, mi avrà dipinto anche a voi per un così barbaro uomo che non vi sarete doluto se vi è mancata finora la mia compagnia». «No, la principessa è veramente...» balbettò Capolino. Don Ippolito si impostò fieramente e disse con accigliata freddezza: «Può andare, se vuole, ma sappia che ciò che oggi le impedisce di uscire dal cancello della mia villa le impedirà domani di rientrarvi. E ora seguitate pure la vostra conversazione». Si mosse per uscire dal salone. Capolino tentò di sostenere innanzi alla donna la sua dignità maschile e gli disse dietro, quasi con aria di sfida, ma che poteva anche parer di scusa: «Voi, principe, mi avete fatto chiamare!» Don Ippolito, già arrivato all'uscio, si voltò appena, tenendo scostata con la mano la portiera. «Oh, per una cosa da nulla», disse. «Ormai, uppie! Uppie!» E passò, lasciando ricadere la portiera. «La risposta! La risposta!» proruppe subito Donna Adelaide, alzandosi, soffocata e con gli occhi tumidi e insanguinati dal pianto. «Aspetto fino a domani la risposta! Oppure che venga lui qua a dirmi se debbo proprio crepare e farmi pestare la faccia così!» «Ma certo, certo!» ribatté Capolino, andandole dietro. «Ma come vuoi che Flaminio te dica, me lo deve dire!» lo interruppe lei, frenetica, mostrando i denti e le pugna. «Questo me deve dire, con la sua bocca! E allora sì, subito, faccio lo sproposito! Io sono pronto, faccio lo sproposito!» Entrò in quel punto Liborio, il cameriere favorito del principe, in preda a un'ansia spaventata, e restò un momento perplesso alla vista del pianto e dell'agitazione della signora. «Eccellenza, eccellenza», disse, «il signor Don Salesio». «E che cos'è?» domandò con rabbia Donna Adelaide. Che vuole?» Niente, eccellenza, e pare che...» E Liborio alzò una mano a un gesto vago di benedizione. «Ah, fece allora donna Adelaide, piantando duramente gli occhi in faccia a Capolino e restando un tratto a guardarlo, accigliata e a bocca aperta, come per sapere da lui se fosse bene o male che giusto in quel punto quel poveretto morisse. Meglio così, esclamò poi. Meglio così, pover'uomo. Andiamo, Ignazio, andiamo a vederlo. E corse dietro a Liborio, seguita da Capolino, frastornato e turbato. L'ho tenuto qua con me, gli diceva, andando. L'ho trattato, l'ho curato. Bella gente siete voi altri ad abbandonarlo così, povero vecchio. Meglio, si leva di patire. Anch'io l'ho trascurato in questi ultimi giorni. Gli assassini gli hanno dato il colpo di grazia. Anche lui, però, e bisogna dirlo, mangiava troppo. Troppi dolci. Sì, eccellenza, sospirò Liborio. Glielo dicevo anche io. Troppi, troppi. Piglia Ignazio, mi è caduto il fazzoletto. Oh, bella madre santissima. Ma che puzzo è qui? E si turò il naso con una mano, restando davanti alla soglia della cameretta in cui il povero vecchio moriva, sostenuto sul letto dal cuoco accorso alla chiamata di Liborio. Trattenuti dall'orrore istintivo della morte, ma forse più dal ribrezzo per l'estrema magrezza di quel volto cartilaginoso, dai istinti, dai globi degli occhi già induriti sotto le palpebre semichiuse, donna Adelaide e Capolino stavano a guardare ancor lì sulla soglia, allorché videro la bocca del moribondo aprirsi sempre più, spalancarsi smisuratamente, come forzata con violenza crudele da una molla interna. «Oddio!» gemette donna Adelaide. «E perché fa così?» Non aveva finito di dirlo che da quella bocca springò fuori, di scatto, qualcosa orribilmente. Donna Adelaide gettò un grido di raccapriccio e levò le mani, quasi al riparo del volto. Liborio andò a guardare sul letto e, scorgendovi una dentiera aperta, «Niente, eccellenza!» disse con un sorriso pietoso. «Ha finito di mangiare!» Il cuoco, intanto, adagiava sul cuscino il capo esanime del povero vecchio.